un luogo, una storia. Di Daniele Biacchessi. Leggiamo 11 messaggi speciali. Il Corriere di Lione. Enrico non studia. Sempre più in alto. Maria si prepari. Martino non parte. Abbi fede. Anna dorme. La mia barba è bionda. La gavetta è vuota. Le sorbe sono acerbe. Torino, 18 aprile 1945. È nato la pre-insurrezione della città. Lo sciopero del 18 aprile, l'ultimo evento prima del decisivo atto della lotta di liberazione, coinvolge non soltanto gli operai ma buona parte dei lavoratori torinesi. L'adesione è alta e alle prime ore del pomeriggio Torino si ferma. Il Comitato di Liberazione Nazionale per l'Alta Italia ha lanciato l'appello per l'insurrezione generale. È dovere di tutti i patrioti della Nuova Italia di impugnare le armi, di non indugiare. In questo momento tutto il mondo vi guarda. Nel nome dei nostri martiri date prova del vostro valore, dimostrate di essere degni della libertà per la quale avete tanto combattuto e sofferto. Viva l'Italia! Genova, 24 aprile 1945, mezzanotte. Il Comitato di Liberazione Nazionale della Liguria ordina l'insurrezione. Le squadre di azione patriottica, SAP, occupano le stazioni ferroviarie di Sestri, Cornigliano, Pegli, Pra, Cogoleto e conquistano le più importanti fabbriche. Milano sta per essere liberata e Torino sta organizzando l'insurrezione. Remo Scappini, operaio, così ricorda quei momenti cruciali della liberazione di Genova. Nel tardo pomeriggio del 23 aprile, le SAP, i GAP e i lavoratori mettevano in attuazione le direttive precedentemente impartite e così la insurrezione, appena si manifestarono la ritirata dei tedeschi e la fuga dei caporioni fascisti, fu di fatto un movimento generale e popolarizzato. Nella notte tra il 23 e il 24 una serie di posizioni erano state conquistate. Da Sturla a Sestri Ponente erano state occupate il carcere di Marassi, la prefettura, la casa dello studente, la questura. E così il giorno 24 lo sciopero insurrezionale era in atto in tutta la provincia di Genova. Il Comitato di Liberazione, nonostante le differenze ideologiche e politiche che dividevano i partiti, agì sempre unitariamente e la forza decisiva dell'azione insurrezionale fu prodotta particolarmente dai partiti che più avevano aderenza tra la classe operaia, tra le masse popolari. A Genova all'alba si fronteggiano 13.000 tra soldati della Wehrmacht e repubblichini, guidati dal generale Gunther Meinhold, e 3.000 uomini delle SAP sostenuti da alcune migliaia di civili. Alle 10 il palazzo del comune, la questura, le carceri di Manassi sono ormai in mano alle forze di liberazione. Intanto a Milano il comitato insurrezionale Luigi Longo, Sandro Pertini, Emilio Sereni, Leo Valiani dirama l'ordine dello sciopero a partire dal 25 aprile. Lavoratori, sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista, per la salvezza delle nostre terre, delle nostre case, delle nostre officine. Come a Genova e a Torino ponete i tedeschi di fronte al dilemma a rendersi o perire. Genova, 24 aprile del 45, pomeriggio. I partigiani si impadroniscono dei principali edifici pubblici, tagliano i collegamenti telefonici, l'elettricità, l'acqua e i presidi tedeschi. Bloccano tutte le vie d'uscita. Torino, 24 aprile del 45, ore 19. Gli alleati passano il Po a sud di Mantova. Il Comitato di Liberazione Nazionale del Piemonte dirama con un messaggio cifrato l'inizio dell'insurrezione di Torino, prevista per il 26 aprile, ore 1, 26 per 1. Aldo dice 26 per 1, stop. Nemico in crisi finale, stop. Attuate piano E27, stop. Fermate tutte le macchine e controllate i passaggi trattenendo persone sospette, stop. Comandi zone interessati abbiano massima cura a assicurare viabilità forze alleate su strada Genova-Torino e Piacenza-Torino, stop. Massimo Rendina è uno dei capi partigiani attestati nella centura di Torino e sarà anche il primo ad entrare nella Torino liberata. Così Rendina in questa intervista ad Alessandro Portelli, conservata nell'archivio del Circolo Bosio di Roma. E così arrivammo poi agli ultimi giorni, che sono i giorni tormentati della presa di Torino, perché noi ci attestammo sul Po, arrivò l'ordine dal comando di Torino di entrare in città, però di attestarci prima sul Po per dividere le zone d'attacco. E mentre eravamo lì ci arrivò l'ordine di non entrare a Torino. È una cosa di cui molti sanno che è successo, che questo colonnello Stevens del SOE aveva avuto delle informazioni dal suo comando generale dell'esercito inglese che c'era una divisione, no, un raggruppamento di divisioni che stavano puntando su Torino tedesche, corazzate. Si chiamava Schlemmer il comandante, e questo colonnello Stevens diceva che se noi entravamo a Torino, Torino sarebbe stata distrutta, insomma, sarebbero state, il sangue sarebbe corso in un modo spaventoso. E noi ci fermammo per qualche ora, meditammo sul problema, ma la città era insorta. Cioè già nelle fabbriche si combatteva. Allora Colaianni, che si chiamava Barbato come nome di battaglia, che era il comandante di tutta questa zona che si attestava sul Po, disse bisogna entrare, e io fui credo il primo o uno dei primi, non mi ricordo, su una moto sidecar. Genova, 24 aprile 1945, sera. Il generale nazista Gunther Meinhold minaccia di bombardare la città. Se dovesse avvenire, il CLN passerebbe per le armi un migliaio di prigionieri nazisti. E sempre a Genova, mattina, il 25 aprile. I partigiani sfondano a ovest della città ed espugnano il punto chiave di Castelleraggio. Un gruppo di studenti universitari e una squadra di sappisti conquistano la stazione radio sull'altura di Granarolo. Così le testimonianze di alcuni partigiani protagonisti dei momenti cruciali della liberazione di Genova, tratte dai giorni dell'insurrezione del 1975. 23 sera inizia l'insurrezione nella città. Il comando zona e il comando militare regionale Ligure, d'intesa col CLN, danno alle formazioni l'ordine di attaccare secondo il piano A già prestabilito da due mesi prima. Una parte scendono in città, una parte risalgono nelle zone dove vi sono le rotabili verso le quali tentano di transitare migliaia e migliaia di truppe, di reparti germanici che provengono dal fronte e dalle zone liguri, sia dal fronte della Carfagnana che dal fronte francese. Difatti Bisagno aveva schierato le due divisioni, la divisione Cicchero, qui fra la Val Trebbia e la Val D'Aveto, sì. L'altra divisione era schierata sul versante piemontese, la divisione Pinan Cicchero, che aveva il duplice compito, il principale era quello di tenere occupare la Valle Scrivia e impedire il deflusso da Genova delle forze tedesche attraverso le due rotabili, la camionale, quella che adesso è l'autostrada Genova-Milano, e la statale 35 quella dei giorni. Genova, 25 aprile 1945, sono le ore in cui Carmine Alfredo Romanzi, nome di battaglia Stefano, uomo di collegamento tra Maynold e CLN, inizia i colloqui con i tedeschi per la resa. Il viaggio è stato veramente disastroso, perché pensate che per fare 40 chilometri abbiamo impiegato dalle 10 fino alle 6 meno un quarto del mattino. Tutto questo era dovuto ai vari posti di blocco che esistevano nella zona, e a San Bierdarena, tanto per dare un esempio, un posto di blocco partigiano per giunta mi ha fermato e mi stavano quasi passandomi per le armi. Quando uno del posto di blocco gli è venuto il dubbio e gli sembrava di conoscermi, e così mi hanno lasciato andare, e di questo passo sono arrivato dopo circa 10 ore a Savignone, un quarto d'ora prima che scadesse il termine dato dal generale Maynold, e l'ho trovato sbarbato, elegante, e mi ha offerto anche una colazione. Dopo 2 ore, forse più, di colloqui in cui abbiamo detto quelle che dovevano essere le condizioni della resa, poiché le trattative si avviavano favorevolmente, abbiamo fatto un fonogramma a Genova e ci siamo avviati verso Genova. Sono arrivato a Genova e ho condotto il generale Maynold a Villa Bigone, cioè in questo posto dove io mi trovo adesso, per farlo incontrare con i membri del CLN Liguria che erano stati designati per la firma della resa delle forze tedesche alle formazioni partigiane. Genova, ore 19.30 del 25 aprile del 45. A Villa Migone, sotto gli auspici del cardinale Pietro Boetto, il generale nazista Gunther Maynold firma la resa. Il testo è sottoscritto anche dal presidente del CLN di Genova, un operaio, Remo Scappini. Tutte le forze germaniche di terra e di mare, alle dipendenze del signor generale Maynold, si arrendono alle forze armate del Corpo Volontari della Liguria, alle dipendenze del Comitato Militare per la Liguria. La resa avviene mediante presentazione ai reparti partigiani più vicini, con le consuete modalità e, in primo luogo, con la consegna delle armi. La resa avrà decorrenza dalle ore 9 del 26 aprile 1945. 25 aprile del 45, ore 23:20. Radio Libera Genova annuncia che la maggior parte della città è stata liberata dai partigiani. L'Ossola, la Valsesia, la zona del Lago Maggiore, Novara sono nelle mani dei patrioti. Gli alleati conquistano l'aeroporto di Villafranca, nei pressi di Verona. 26 aprile 1945, ore 4:30. Il capitano di vascello Max Berninghaus, comandante delle forze tedesche al porto, si oppone all'ordine di resa del generale Günther Maynold. Lo condanna a morte in nome del Terzo Reich e ordina la resistenza a oltranza. Genova, 26 aprile 1945, ore 9. Il democristiano Paolo Emilio Taviani annuncia alla radio che Genova è libera. Solo una parte degli ufficiali nazisti esegue l'ordine. I sappisti genovesi, con l'aiuto delle brigate di montagna arrivate in forza in città, attaccano i tedeschi nella zona portuale. Torino, 26 aprile del 45, mattina. Inizia l'insurrezione. A ovest di Torino, due divisioni tedesche al comando del generale Schlemmer impediscono l'intervento delle formazioni partigiane di montagna. Le SAP operaie prendono il controllo dei ponti sul Po. 26 aprile 1945, ore 22. Dopo i combattimenti al porto, i tedeschi alla fine sono costretti alla resa finale. 2.000 prigionieri e un ingente bottino bellico. Avanguardie motorizzate della Quinta Armata Americana entrano a Nervi. Torino, 27 aprile del 45, mattina. I partigiani espugnano il fortilizio delle Brigate Nere e la caserma di Via Arti. I tedeschi si rinserrano nel centro della città, in un quadrilatero formato da Corso Vittorio Emanuele, Via Civescovado, Via 20 Settembre, Corso Galileo Ferraris. Così racconta Massimo Rendina. E furono giorni di combattimenti feroci, terribili, e cioè l'unica città veramente dove si è combattuto tanto fu Torino. Ci sono degli episodi che non sono stati forse raccontati, almeno non... Per esempio, io mi sono trovato nell'ultimo momento con la città quasi liberata ad assaltare Viasti. Viasti era una caserma della milizia, della Guardia Nazionale Repubblicana, comandata da un certo Cabras, dove si erano praticate torture, eccetera, che aveva però creato dei cunicoli per cui molti scapparono di sotto. Ma la cosa più curiosa è che a un certo punto era imprendibile, arrivò, non so da dove, come, un piccolo cannone, però nessuno sapeva adoperarlo. E allora due borghesi che erano lì dicevano: ma noi possiamo farlo noi siamo soldati di artiglieria, eccetera. Ed erano due che erano scappati dalla caserma. Lo sapevamo dopo, che spararono contro i loro, anche per accreditarsi probabilmente, e lì ci fu molta confusione. I partigiani dell'ultimo momento sono tanti, e non è escluso che ci fossero anche dei fascisti diventati partigiani un'ora prima, insomma, c'era molta confusione. E prendemmo Viasti, però non trovavamo Cabras. Cabras fu preso dopo e fu fucilato. E la cosa terribile di Torino è che c'erano i franchitiratori, i quali non sparavano contro i partigiani, sparavano contro chiunque, cioè era proprio un'azione terroristica, e chi li aveva organizzati era questo Solaro, che fu impiccato in Corso Vinzaglio, dove era stato impiccato allo stesso albero di Vian, che era un partigiano nostro, un eroico partigiano che fu impiccato dai fascisti. Il tribunale militare ne ordinò la morte. Io ebbi l'ordine di farlo impiccare. Fu un gruppo della 19ª, un reparto della 19ª incaricato, però andai anch'io lì, e lì successe una cosa spaventosa. A parte questo uomo distrutto dal fatto di sapere di essere ammazzato, che per quanto tu possa essere preso dal livore e dall'amore anche di giustizia, ti fa sempre pena vedere un uomo morire poi in quella situazione. Io ero poi contrario all'impiccagione, tant'è vero che avevo chiesto: ma possiamo fucilarlo? No, dice, perché tirarono fuori qualcuno, dice, il codice inglese. La verità è che volevano restituire alla popolazione questa visione del colpevole, che tra l'altro era l'organizzatore proprio dei franchitiratori. Aprile 1945, notte. A Torino le truppe tedesche rompono l'accerchiamento partigiano e raggiungono a nord-est l'autostrada per Milano. I partigiani liberano Arona, Vercelli, la provincia di Varese e la frontiera italo-svizzera da Como a Domodossola per circa 75 chilometri. Colonne americane si avvicinano a Brescia, già in mano ribelle. Rafforzate le teste di ponte oltre l'Adige, le truppe alleate puntano sul Trentino. Tre quarti di Berlino sono ormai nelle mani dei sovietici. La terza armata americana raggiunge il confine cecoslovacco. Torino, 28 aprile del 45, mattina. Arrivano le formazioni partigiani di montagna. Sono la 7ª divisione Garibaldi, la 3ª divisione Giustizia e Libertà, la divisione autonoma di Enrico Martini Mauri. 28 aprile 1945, sera. Gli alleati entrano ad Alessandria, Vicenza, Padova, Rovigo. Raggiungono la frontiera svizzera a Chiasso. A Berlino le truppe di Zhukov avanzano da nord, quelle di Konev da sud, e sono ormai prossime al Reichstag e al bunker della cancelleria dove Hitler resiste. La 7ª armata americana è a 40 chilometri da Monaco di Baviera. Il 28 aprile del 45 a Giulino di Mezzega vengono fucilati Benito Mussolini e Claretta Petacci. Due giorni dopo Hitler, Eva Braun, Goebbels e la sua famiglia si uccidono nel bunker della cancelleria a Berlino. I sovietici sono ormai a poche centinaia di metri di distanza. In Italia la 92esima divisione della quinta armata americana raggiunge Torino, mentre a est unità del secondo corpo americano raggiungono Treviso. Prosegue la marcia delle unità del tredicesimo corpo britannico verso Trieste. L'incubo è ormai finito. Tutti si impegneranno alla ricostruzione democratica del paese.